Capitolo 27. Giunta a casa, Fanny salì immediatamente al piano di sopra per riporre il suo nuovo inaspettato tesoro, la collana che rappresentava un così discutibile bene, nell'apposita scatola che nella stanza a est custodiva tutte le sue piccole ricchezze. Ma mentre apriva la porta, quale fu la sua sorpresa nel vedere suo cugino Edmund seduto al tavolino intento a scrivere. Circostanza che, non essendosi mai verificata prima da allora, la sbalordì e la rese felice. «Fanny», disse subito lui, levandosi in piedi e posando la penna. «Fanny», continuò venendo verso di lei con un pacchetto in mano, «ti chiedo scusa per essermi introdotto nella tua stanza. Sono venuto a cercarti e dopo aver atteso per un po', sperando di vederti entrare, stavo facendo uso del tuo calamaio per spiegarti lo scopo della mia visita. Troverai sul tavolo l'inizio di una lettera per te. Ma ora posso spiegartelo direttamente. Voglio semplicemente chiederti di accettare questo piccolo dono, una catena per la crocetta di William. Avresti dovuto riceverla una settimana fa, ma c'è stato un ritardo dovuto all'assenza di mio fratello da Londra alcuni giorni prima di quanto mi aspettassi. E me l'hanno consegnata poco fa. Spero che la catena ti piaccia, Fanny. Ho fatto del mio meglio per conformarmi alla semplicità del tuo gusto e so che in ogni modo terrai gentilmente conto della mia intenzione e che la considererai per quello che è realmente, un pegno del bene che ti vuole uno dei tuoi più vecchi amici. E detto ciò, stava per uscire affrettatamente dalla stanza prima che Fanny, sopraffatta da mille sentimenti di pena e di piacere, riuscisse a parlare, quando, riscossa da un impulso irresistibile, lo chiamò: «Oh, cugino, fermati un momento, ti prego, fermati!» Egli si volse e tornò indietro. «Non so come ringraziarti», continuò lei agitatissima. «I ringraziamenti sono insufficienti. Provo molto più di quanto posso esprimere. La tua bontà nel pensare a me a questo modo va oltre...» «Ah, se questo è tutto quello che hai da dire, Fanny», fu la sorridente risposta di Edmund, mentre accennava nuovamente ad andarsene. «No, no, non è tutto. Voglio anche chiederti un consiglio». Quasi inconsciamente, intanto, aveva aperto il pacchetto che gli aveva posto in mano e si era trovata sotto gli occhi, in tutta l'eleganza della presentazione di un gioielliere, una catena d'oro di fattura schietta, perfettamente semplice e lineare, e non poté trattenersi dall'esclamare impetuosamente: «Oh, è veramente bella, è proprio la cosa giusta, è proprio quello che desideravo, è l'unico gioiello che ho mai veramente desiderato di possedere. Si adatta esattamente alla mia crocetta. Devono essere portate insieme e lo saranno. E mi giunge in un momento così opportuno. Oh, cugino, non puoi sapere quanto il tuo dono sia opportuno». «Mia cara Fanny, adesso esageri. Sono felicissimo che la catena ti piaccia e che sia giunta in tempo per domani. Ma i tuoi ringraziamenti vanno veramente oltre l'importanza della cosa, credimi. Per me al mondo non c'è piacere maggiore del contribuire al piacere tuo. No, non posso dirtelo con certezza, non conosco altro piacere così completo, così puro, senza rovesci della medaglia». Su simili espressioni d'affetto, Fanny avrebbe potuto concentrarsi per un'ora, senza pronunciare una sola parola. Ma dopo una breve attesa, Edmund la costrinse dalla sua estatica contemplazione, chiedendole: «Ma su cosa vuoi consultarmi?» Si trattava dell'altra collana che ora Fanny desiderava ardentemente restituire e la cui restituzione sperava venisse approvata da lui. Riferì la visita fatta alla canonica e la sua estasi prese fine, perché Edmund fu così vivamente colpito dalla cosa, così entusiasta del gesto di Miss Crawford, così felice della coincidenza del loro modo di agire, che Fanny non poté non riconoscere la precedenza che quel piacere aveva su di lui, anche se comportava un rovescio della medaglia. Ci volle un po' di tempo prima che le riuscisse di attirare l'attenzione del cugino sul suo progetto e di ottenere una coerente risposta alla domanda circa la sua opinione in proposito. Era immerso in una tenera, sognante contemplazione interiore, pronunciava ogni tanto frammentarie espressioni di lode, ma quando finalmente si riscosse e capì, si pronunciò con ferma decisione contro quanto lei intendeva fare. «Restituire la collana? No, cara Fanny, assolutamente no, equivarrebbe a mortificarla severamente. Non vi è più spiacevole sensazione del vedersi restituire una cosa, qualunque cosa che abbiamo dato con la ragionevole speranza di contribuire alla gioia e alla serenità di una persona amica, perché dovrebbe essere privata di un piacere di cui si è dimostrata così meritevole?» «Ma Edmund, se la collana fosse stata donata direttamente a me, disse Fanny, non mi sarebbe venuto in mente di restituirla, ma essendo un regalo di suo fratello, non è giusto supporre che preferirà non separarsene sapendo che ora io non ne ho più bisogno? Non deve supporre che tu non ne abbia più bisogno, o perlomeno che non ti sia bene accetta. Il fatto che sia stato un regalo del fratello non fa nessuna differenza, poiché se ciò non ha impedito a lei di offrirtela e a te di accettarla, non vi è ragione perché tu non debba trattenerla. Senza dubbio è molto più bella della mia e più adatta per una festa da ballo. No, non è più bella, assolutamente non è più bella, anche se diversa, ed è molto meno adatta allo scopo per cui mi deve servire. La tua catena si accorda con la croce di William molto più della collana, è indiscutibile. Per una sola serata, Fanny, anche se deve costarti un sacrificio. Sono certo che dopo aver considerato la cosa preferirai fare quel sacrificio piuttosto di dare un dispiacere a lei che con tanta sollecitudine si è preoccupata della tua serenità. Le attenzioni che Miss Crawford ti ha usato non sono più di quanto tu abbia il giusto diritto di aspettarti, e io sono l'ultima persona al mondo che potrebbe pensare altrimenti. Ma queste attenzioni sono state costanti, e contraccambiarle con un gesto che avrebbe in sé l'apparenza dell'ingratitudine, anche se so che non potrebbe mai averne la sostanza, non sarebbe da te, ne sono certo. Porta la collana come ti sei impegnata a farlo domani sera e metti da parte la catena che non è stata espressamente ordinata in occasione del ballo per usarla in una circostanza meno impegnativa. Questo è il mio consiglio. Non vorrei veder sorgere l'ombra di un malinteso fra due persone di cui ho visto nascere l'intimità con così grande piacere e i cui caratteri si assomigliano tanto nella spontanea generosità e nella naturale delicatezza da far sì che le poche, lievi differenze siano da far risalire al diverso ambiente in cui sono cresciute e non debbano essere di alcun impedimento a una perfetta amicizia. Non vorrei che un'ombra di freddezza sorgesse tra voi, insisté, mentre la sua voce cedeva un poco, fra le due persone che ho più care al mondo. Se ne andò mentre pronunciava queste ultime parole e Fanny, rimasta sola, tentò di calmare come meglio poté l'angustia che le mordeva il cuore. Lei era una delle due persone che egli aveva più care, questo doveva darle forza, ma l'altra, quella che veniva per prima, non l'aveva mai udito parlare così apertamente in proposito e benché non le avesse rivelato nulla più di ciò che già da molto tempo aveva intuito, fu come ricevere una pugnalata, perché quella dichiarazione metteva in piena luce il proposito e la speranza di lui. Era deciso, avrebbe sposato Miss Crawford. Sì, era una vera pugnalata, anche se da tempo se l'aspettava e dovette ripetersi ancora e ancora che lei stessa era uno dei suoi due più cari affetti, prima che queste parole prendessero un pieno senso. Se avesse potuto credere che Miss Crawford lo meritava, la cosa sarebbe stata, oh sì, come sarebbe stata diversa, quanto più tollerabile, ma Edmund si ingannava sul conto di lei, le attribuiva virtù che lei non aveva, i suoi difetti erano quelli che anche lui in un primo tempo aveva visti, ma che ora non vedeva più. Solo dopo aver sparso molte lacrime, Fanny riuscì a calmare la propria agitazione e solo con le fervide preghiere per la felicità del cugino riuscì ad emergere dallo stato di frustrazione che ne seguì. Era sua intenzione, oltre che suo dovere, tentar di dominare tutto quanto vi era di eccessivo nel suo affetto per Edmund, tutto quanto confinava con l'egoismo. Considerare quanto si era svolto poco prima fra loro come la conferma di una perdita, immaginarlo tale, dargli il nome di delusione, sarebbe stato arbitrario. Sarebbe stato un atto di presunzione per cui la sua umiltà non aveva parole di condanna abbastanza forti. Pensare a lui come Miss Crawford poteva essere giustificata a farlo sarebbe stato da parte sua pura follia. Per lei egli non poteva essere in alcun caso nulla di più caro di un amico. Perché quell'idea le si presentava tanto spesso, anche se solo per essere riprovata e respinta? Non avrebbe dovuto nemmeno affacciarsi alla sua immaginazione, ma si sarebbe sforzata di essere ragionevole e di avere così il diritto di valutare il carattere di Miss Crawford o di indulgere a una sincera sollecitudine per lui, con saldo equilibrio e cuore onesto. Il suo era un eroismo che nasceva da sani principi, sapeva qual era il suo dovere ed era risoluta a compierlo, ma poiché aveva anche molti dei naturali impulsi della gioventù, non ci si stupisca molto se dopo aver preso tutte quelle buone risoluzioni e aver deciso di autocontrollarsi, afferrò il pezzo di carta su quale Edmund aveva incominciato a scrivere, Considerandolo un insperato tesoro, si abbandonò alla più tenera commozione, leggendo le seguenti parole: «Mia cara, carissima Fanny, devi farmi il favore di accettare». E poi lo ripose con la catena, considerandolo la parte più cara del dono. Era la prima parvenza di lettera che avesse mai ricevuto da lui. Era possibile che non dovesse mai riceverne un'altra. Era impossibile che potesse riceverne mai un'altra, così perfettamente gratificante, tanto per le circostanze in cui era stata vergata quanto per lo stile. Mai righe più apprezzate erano uscite dalla penna del più distinto fra gli scrittori. Mai avevano così completamente appagato le ricerche del più appassionato dei biografi. L'entusiasmo di una donna innamorata supera perfino quello del biografo. Per lei la stessa grafia, indipendentemente dal contenuto del messaggio, è una gioia che non ha uguali. Mai caratteri tracciati da mano umana procurarono una gioia lontanamente paragonabile a quella data dalla normalissima scrittura di Edmund. Quel campione, pur tracciato affrettatamente com'era, non aveva difetti, e vi era una così felice scioltezza nello slancio delle prime quattro parole, nell'eleganza di quel mia cara, carissima Fanny, che ella avrebbe potuto contemplare senza stancarsi mai. Avendo messo in ordine nei suoi pensieri e confortato i suoi sentimenti con questa felice combinazione di razionalità e debolezza, Fanny fu in grado di scendere a pian terreno a tempo debito per sbrigare le solite incombenze presso la zia Bertram e dedicarle le consuete attenzioni senza nessuno sforzo apparente. Il giovedì, atteso con speranza e con piacere, giunse e per Fanny ebbe un inizio più amabile di quanto spesso simili giorni, indipendentemente dalla volontà dei singoli, portano con sé, poiché mentre stava finendo di far colazione, fu consegnato a William un biglietto molto amichevole di Mr. Crawford, il quale gli diceva che, trovandosi costretto a recarsi in città l'indomani, non sapeva rinunciare al tentativo di garantirsi un piacevole compagno e perciò sperava che William fosse disposto a lasciare Mansfield alcune ore prima del previsto per prendere posto con lui nella carrozza. Mr. Crawford faceva conto di giungere a Londra in tempo per l'ora del pranzo, che in casa di suo zio era abitualmente servito piuttosto tardi e naturalmente William era invitato a pranzo con lui dall'ammiraglio. La proposta riuscì graditissima al giovane, attratto dalla prospettiva di viaggiare celermente in un tiro a quattro in compagnia di un amico simpatico e pieno di brio, e bastava il confronto col viaggio in diligenza postale per rendersi subito conto di quanto vi fosse in favore dell'alternativa propostagli. E con l'immaginazione ne pregustava già tutto il piacere e la dignità. Anche Fanny, seppur per un diverso motivo, era assai compiaciuta. Era stato deciso che William avrebbe preso la diligenza a Northampton la sera seguente, il che non gli avrebbe concesso nemmeno un'ora di riposo prima di salire nella vettura che, diretta a Portsmouth, faceva coincidenza. Perciò, benché l'offerta di Mr. Crawford la privasse di parecchie ore da passare in compagnia di William, era troppo lieta di sapere che gli sarebbe stata risparmiata la fatica di uno scomodo viaggio per dar peso ad altre considerazioni. Sir Thomas approvò il progetto per un diverso motivo. Pensava che la presentazione di suo nipote all'ammiraglio Crawford potesse tornare utile al giovane. L'ammiraglio, come noto, aveva influenti relazioni. Il biglietto fu dunque portatore di generale soddisfazione. Per metà della mattinata contribuì all'animazione e al buon umore di Fanny, lieta, oltre al resto, di apprendere che anche lo scrivente si sarebbe assentato. In quanto al ballo, ormai così vicino, era in preda a troppo grande agitazione, a troppi timori, per godere anche solo metà del piacere che se ne era ripromessa o che avrebbe dovuto ripromettersene, a giudizio delle molte fanciulle che attendevano con ansia quello stesso evento. Che lo attendevano però con umore più rilassato, data la minore novità che la cosa aveva per loro, il minore interesse, la minor soddisfazione di quella che si supponeva in lei in onore della quale il ballo veniva dato. Miss Price, conosciuta solo di nome da metà degli invitati, stava per fare la sua prima comparsa in società e perciò doveva essere considerata la regina della serata. Chi poteva dunque essere più felice di lei? Ma Miss Price non era stata educata precipuamente in vista del suo debutto in società e se avesse saputo sotto quale luce il ballo era generalmente considerato nei suoi confronti, ciò avrebbe di molto diminuito la sua relativa serenità e accresciuto le paure che già aveva di commettere qualche sbaglio mentre tutti la tenevano d'occhio. Ballare senza essere notate, senza faticarsi troppo, avere la forza di fare la sua parte con svariati cavalieri per circa metà serata, ballare un po' con Edmund e non troppo con Mr. Crawford, vedere William che si divertiva e riuscire a star lontana dalla zia Norris costituiva la sua più alta ambizione e sembrava dover riassumere per lei la maggiore felicità. Essendo queste le sue più alte speranze, non poté vederle tutte realizzate. E nel corso di una lunga mattinata, spesa principalmente con le due zie, si sorprese spesso a cedere a meno ottimistiche prospettive. William, deciso a godersi quest'ultimo giorno dal principio alla fine, era fuori a caccia di beccaccini. Edmund, Fanny non aveva che troppi motivi per supporlo, si trovava probabilmente alla canonica e lei era lasciata sola a sopportare il malumore di Mrs. Norris, irritata perché la governante voleva fare a modo suo con la cena. Malumore al quale la governante poteva sottrarsi, ma lei no. Così alla fine Fanny, spossata, fu indotta a pensare che ogni cosa attinente al ballo andava storta e quando fu bruscamente spedita a vestirsi, si mosse così svogliatamente verso la propria camera e si sentì così incapace di provare la benché minima gioia, come se tutto le fosse completamente estraneo. Mentre saliva lentamente al piano di sopra, riandava col pensiero al giorno precedente. Quella era circa l'ora in cui era tornata dalla canonica e aveva trovato Edmund nella stanza a est. E se lo trovassi là oggi, fantasticò tra sé. Fanny, disse in quel momento una voce vicino a lei. Trasalì e alzò lo sguardo. All'altra estremità dell'anticamera che aveva appena raggiunto, scorse Edmund in persona, ritto in cima a un'altra rampa di scale. Le venne incontro. Sembri stanca e affaticata, Fanny. Hai fatto una passeggiata troppo lunga? No, non sono uscita affatto. Allora ti sei stancata in casa, il che è ancora peggio. Avresti fatto meglio ad uscire. Fanny, che non desiderava lamentarsi, trovò più semplice non rispondere e benché egli la guardasse con la solita gentilezza affettuosa, pensò che aveva già dimenticato di preoccuparsi per il suo aspetto. Non sembrava di buon umore. C'era qualcosa che lo turbava, qualcosa che non aveva a che fare con lei. Continuarono a salire insieme, poiché le loro camere erano entrambe al piano superiore. Vengo da casa del dottor Grant, disse Edmund da lì a poco. Puoi indovinare quello che mi ci ha condotto Fanny? E la guardò con tale espressione che Fanny poté pensare a un unico motivo, il che la sconvolse troppo per permetterle di parlare. Desideravo impegnare Miss Crawford per i primi due balli, fu la spiegazione che seguì, ridando fiato a Fanny e mettendola in grado di porre, come evidentemente lui si aspettava, una domanda circa il risultato. Sì, rispose Edmund, si è impegnata con me, ma con un sorriso forzato, ha detto che sarà l'ultima volta che ballerà con me. Non diceva sul serio, penso, spero, sono sicuro che non dicesse sul serio, ma avrei preferito non sentirglielo dire. Non ha mai ballato con un ecclesiastico, ha detto, e non lo farà mai. Per parte mia, vorrei che non ci fosse stato un ballo, proprio intendo dire, non in questa settimana, proprio in questo giorno, domani vado via da casa. Fanny lottò per trovare le parole adatte e disse: Mi spiace molto che qualcosa ti abbia dato pena. Oggi dovrebbe essere un giorno di gioia. Questa era l'intenzione dello zio. Oh, sì, e sarà un giorno di gioia. Finirà tutto bene. È solo un momento di contrarietà. Di fatto non considero la data fissata per il ballo come inopportuna. Cosa vuol dire dopo tutto? Ma Fanny, e la trattenne prendendole la mano e parlando a voce bassa e seriamente. Tu sai cosa significa per me tutto ciò, tu vedi come stanno le cose e potresti dirmi forse meglio di quanto io possa dire a te come e perché io mi senta così oppresso. Lascia che ti parli un po', tu sei un'ascoltatrice tanto, tanto gentile. Quei suoi modi stamattina mi hanno addolorato e non riesco a dimenticarli. So che ha un'indole soave e senza difetti come te, ma l'influenza dei suoi primi compagni la fanno sembrare. Danno a volte alla sua conversazione e alle opinioni che professa una sfumatura impropria. Non pensa impropriamente, ma parla come se lo facesse. Parla così per scherzare, e benché io sappia che è per gioco, sentirla mi amareggia fino in fondo all'anima. Effetto dell'educazione, disse Fanny con gentilezza. Edmund fu pienamente d'accordo. Sì, quello zio e quella zia hanno guastato la più bella delle menti, poiché a volte Fanny. Te lo confesso, il suo sembra più che un manierismo, sembra che la mente stessa sia stata corrotta. Fanny ebbe l'impressione che quelle parole fossero un appello a un giudizio contrario da parte sua e perciò, dopo un momento di riflessione, disse: Sai, Se in me desideri una semplice ascoltatrice, cugino, ti sarò quanto più utile possibile, ma non sono qualificata per consigliarti. Non mi chiedere consiglio, non sono competente. Hai ragione, Fanny, di protestare contro la mia richiesta, ma non devi temere. Si tratta di una cosa sulla quale non chiederò mai consiglio. È un argomento sul quale è meglio non chiederne mai. E immagino che siano pochi quelli che lo fanno, a meno che non desiderino essere influenzati contro la propria coscienza. Desidero semplicemente parlare con te. Una cosa sola, scusa la libertà, ma bada come mi parli. Non dirmi nulla ora di cui in seguito ti potresti pentire. Può venire il momento. E mentre parlava, il rossore le coprì le guance. Oh, carissima Fanny, esclamò Edmund, portandosi la mano di lei alle labbra con un ardore quasi uguale a quello che avrebbe manifestato se si fosse trattato della mano di Miss Crawford. Sei tutta delicatezza e considerazione. Ma nel mio caso considerazione e delicatezza sono inutili. Quel momento non verrà mai. Incomincio a considerarlo assai improbabile. Le probabilità diminuiscono di giorno in giorno, e anche se dovesse, non vi sarà nulla da ricordare, sia da parte tua che da parte mia, di cui dobbiamo temere l'ombra, poiché non mi potrò mai vergognare degli scrupoli che provo. E se verranno rimossi, sarà grazie a un cambiamento che porrà il suo carattere ben al di sopra del ricordo dei difetti di un tempo. Tu sei l'unica persona al mondo alla quale io possa dire quello che ti ho detto ora, ma tu hai sempre saputo l'opinione che ho di lei. Tu puoi testimoniare, Fanny, che non sono mai stato cieco. Quante volte abbiamo parlato delle sue piccole pecche? Non devi temere le mie confidenze. Ho quasi rinunciato a ogni seria intenzione su di lei, ma sarei veramente uno sciocco se, qualsiasi cosa avvenga, io potessi pensare alla sua affettuosa gentilezza e simpatia senza la più sincera gratitudine. Aveva detto abbastanza per mettere alla prova l'esperienza di una diciottenne. Aveva detto abbastanza per dare a Fanny un senso di serenità maggiore di quella sperimentata ultimamente. Con aspetto più sollevato rispose: Sì, cugino, sono convinta che saresti incapace di qualsiasi altro comportamento, benché forse certuni nelle tue condizioni non lo siano. Non ho paura di ascoltare qualsiasi cosa tu voglia dirmi. Parla liberamente, dimmi tutto quello che vuoi. Erano ormai giunti al secondo piano e la comparsa di una cameriera impedì ogni ulteriore conversazione. Per la serenità di Fanny, forse furono interrotti nel più felice momento. Se egli avesse avuto modo di parlare per altri 5 minuti, forse sarebbe riuscito, sfogandosi, a dimenticare tutti i difetti di Miss Crawford e insieme a vincere il proprio sconforto. Ma così, restando le cose, si separarono, lui rivolgendole uno sguardo di grato affetto e lei con l'animo colmo di sensazioni rare e preziose. Erano ore che non provava nulla di simile. Dopo che la prima gioia procuratale dal biglietto di Mr. Crawford a William era progressivamente andata esaurendosi, era caduta in uno stato addirittura opposto. Intorno a lei l'atmosfera era tesa, dentro di lei si era spenta ogni speranza. Invece, ora tutto le sorrideva. La fortuna, toccata a William, le era nuovamente presente, le sembrava più grande di quanto le fosse parsa tutta prima, e la serata, che di lì a poco l'attendeva, era tutta da godere. E incominciò ad abbigliarsi con la trepida concentrazione ben conosciuta da qualsiasi giovinetta che si prepara per il suo primo ballo. Il risultato fu soddisfacente. Guardandosi allo specchio non dispiacque a se stessa. Quando prese in mano la collana di Miss Crawford, la sua buona sorte le sembrò completa, poiché, nonostante svariati tentativi, non riuscì a farla passare attraverso l'anello della crocetta. Aveva deciso di mettersela per far piacere a Edmund, ma non era abbastanza sottile, dunque avrebbe portato la catena donatale dal cugino e con intima gioia le adattò la crocetta di William, unendo così i due doni ricevuti dalle mani delle persone che le erano più care. I due pegni che sembravano fatti l'uno per l'altro, tanto dal punto di vista pratico quanto da quello sentimentale. Se li mise al collo, vide, sentì quanto le parlavano di William e di Edmund, e allora le fu facile risolversi a portare anche la collana di Miss Crawford. Riconobbe che essa ne aveva diritto, che era giusto fare così, e visto che il secondo gioiello non usurpava il posto del primo, non interferiva con quello, lei doveva riconoscere la gentilezza dell'amica, anzi, poteva addirittura mettere al collo con piacere la collana di Mary. La collana faceva davvero un effetto bellissimo e Fanny, finalmente pronta, lasciò la sua camera contenta di se stessa e di tutto il resto. Sua zia Bertram si ricordò di lei in quell'occasione con un insolito gesto di sollecitudine. Le era venuto in mente che Fanny, preparandosi per un ballo, poteva desiderare un aiuto più efficiente di quello della solita cameriera e così, quando fu pronta lei, mandò niente meno che la sua cameriera personale affinché l'aiutasse, troppo tardi naturalmente per esserle di una qualche utilità. Mrs. Chapman aveva appena raggiunto l'attico quando Miss Price uscì dalla sua camera completamente vestita e vi fu tempo solo per uno scambio di cortesi parole. Ma Fanny valutò la grande bontà del gesto di sua zia quasi quanto lo valutavano la zia stessa e Mrs. Chapman con lei.